Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Una coppia aggredita vicino Roma, lui chiuso nel bagagliaio, lei violentata. Maroni annuncia militari nelle città altri 6 mesi. Via libera al piano carceri contro il sovraffollamento. Strutture del 400 non vanno più bene, dice il ministro Alfano. Assalto ad un asilo a Bruxelles, uccisi un bimbo e un adulto, l'aggressore è già stato arrestato. Insulti a Echino in aula a Milano, al processo contro le Brigate Rosse, bagarre e udienza sospesa. Latino per il classico, matematica per lo scientifico, decise le materie per l'esame di immaturità, ad annunciarle il ministro sceglie internet. Anche il Papa debutta su YouTube, la rete, dice Ratzinger in un video, è una grande opportunità per l'umanità. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Un nuovo caso di violenza sessuale dunque in provincia di Roma, dopo quello avvenuto già mercoledì sera nella capitale, dunque un'altra brutta storia. E cosa è successo? Chiediamo di raccontarcelo ad Andrea Viali. Sì, è una scena all'arancia meccanica, possiamo dire, quella avvenuta stanotte a Guidonia, che è un comune che si trova ad una ventina di chilometri da Roma. Ancora una violenza sessuale, lo ricordavate, dopo quella avvenuta mercoledì sera nella periferia della capitale. Questa volta la vittima è una ragazza di 21 anni che si era appartata in auto con il fidanzato in una strada isolata. Attorno a l'una di notte, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, i due sono stati avvicinati da 5 uomini a volto coperto, sembra stranieri, romeni o forse albanesi, che li hanno rapinati, poi hanno picchiato e chiuso nel bagagliaio il ragazzo. Quindi a turno 4 dei 5 aggressori hanno abusato della 21enne, poi si sono dati alla fuga. La giovane e il ragazzo sono stati medicati nella notte all'ospedale Pertini di Roma, dal quale sono stati poi dimessi nella zona fra Guidonia e Tivoli. È ora in corso una caccia all'uomo che vede impegnati oltre 150 carabinieri che stanno setacciando i campi abusivi e gli insediamenti abitati da stranieri. Però è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea Viali. E intanto al quartiere Prima Valle, dove mercoledì sera, ricordavamo, una donna di 41 anni è stata violentata mentre stava tornando a casa. La pista potrebbe essere, secondo gli inquirenti, 2 uomini dell'est, dalla carnagione molto scura, forse nomadi. E a protestare sono proprio gli abitanti della periferia di Prima Valle. Questa storia è il frutto dell'abbandono del quartiere, soprattutto nella zona popolare che sta diventando anche il posto dove la gente si convince di potersi fare giustizia da sé. È il racconto di una degli abitanti della zona, Anna Sbariggia, farmacista a Prima Valle, l'ha intervistata Cristina Carpinelli. E qui ci sono una serie di ville, cose, anche però delle case popolari. Che è successo? Che l'altra sera, che c'era la famosa partita della Roma, erano tutti dentro a guardare la partita, questa signora è scesa dall'autobus al capolinea in fondo alla strada, in fondo a questa strada che si chiama via Andersen. Allora, questa via è illuminata solamente nella parte centrale, ma poco illuminata, mal illuminata sia nella parte centrale che nelle parti laterali, soprattutto nelle strade collaterali, perché poi questa via finisce nella campagna, è molto buia, è molto scura, perché è un pochino abbandonato come quartiere. E su questo ennesimo caso di violenza a Roma è intervenuto anche il ministro degli interni al termine del Consiglio dei Ministri, sentiamo allora Maroni, che ha fatto anche qualche annuncio. Sono fatti molto gravi che richiedono un maggior controllo del territorio, questi fatti si prevengono in questo modo. Noi, come sapete, siamo intervenuti da subito in questa direzione, abbiamo dispiegato 3.000 militari che hanno dato eccellenti risultati, abbiamo avviato un processo di realizzazione di sistemi di sicurezza, 100 milioni di euro nel 2009, un fondo speciale per la sicurezza urbana che prevede appunto realizzazione di strutture di videosorveglianza. Dobbiamo continuare a intensificare questa azione. Nei prossimi giorni farò una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza per dare il via alla seconda fase dell'utilizzo dei militari nelle città, che partirà dal 4 di febbraio. Per un nuovo semestre. Questa è la strada, c'è un'ottima collaborazione con i sindaci, con il sindaco di Roma in particolare, per una forte presenza di comunità particolari. Dunque, sicurezza ancora sul tavolo dei Consigli dei Ministri per i fatti di cronaca. Doveva esserci anche la questione giustizia, si è parlato per la verità di carceri, una decisione su questo fronte è arrivata. Vincenzo Miglietta, andiamo a Palazzo Chigi. Buongiorno, a Palazzo Chigi è stato messo a punto un piano carceri, Franco Ionta ne sarà il neo commissario straordinario, obiettivo del governo costruire nuove strutture per decongestionare l'attuale situazione, ma sentiamo il ministro della giustizia Alfano. Noi siamo convinti che abbiamo messo in atto un piano straordinario che forse per la prima volta potrà dotare il nostro paese di infrastrutture moderne. Ricordo solamente in conclusione che le nostre carceri sono per lo più state realizzate tra il 1400 e il 1800 e che le nuove carceri hanno avuto, quelle di maggiore importanza e di costruzione, tempi di edificazione vicini o superiori ai 10 anni. Noi intendiamo ribaltare tutto questo e siamo fiduciosi della possibilità di riuscirci. Alfano ha poi aggiunto che per la riforma della giustizia, a partire dalle intercettazioni, vi sarà un nuovo appuntamento di sintesi con i capigruppo della maggioranza. Altro capitolo, l'immigrazione clandestina, le decisioni del governo riguardano l'isola di Lampedusa, da sempre al centro delle rotte dei migranti. Da questa mattina, ha annunciato il ministro dell'interno Maroni, è attivo un centro di identificazione ed espulsione accanto a quello già esistente di prima accoglienza. Entro febbraio, aggiunto il responsabile del Viminale, sarà concluso il piano rimpatri. Un bilancio poi da Maroni, dal 1 gennaio, ha detto: abbiamo rimpatriato direttamente da Lampedusa 150 clandestini. Il ministro ha inoltre garantito ai cittadini di Lampedusa che ci sarà una risposta alle loro richieste. Da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. La cronaca nera purtroppo oggi ci propone un'altra pagina che questa volta arriva dal Belgio. Un uomo con un coltello ha fatto una strage in una scuola materna alle porte di Bruxelles. Ci racconta tutto Laura Bettini. Buongiorno, sì, è stato ridimensionato ma resta drammatico il bilancio di questo attacco in un asilo nido di Dendermonde a 30 km da Bruxelles in zona fiamminga. Le vittime sono 2 e non 5, un bambino e un adulto. Queste le ultime informazioni che arrivano dal Ministero degli Interni fiammingo. Ci sono però anche diverse altre persone ferite, certamente più di 10, alcune in modo serio, e questi feriti sono da registrarsi tra adulti e bambini presenti all'interno del nido. L'aggressore pare sia il padre di uno dei bambini che ha fatto irruzione questa mattina nella scuola armato di coltello. Alcuni testimoni riferiscono che aveva il viso dipinto a strisce bianche e nere e poi è stato arrestato non lontano mentre fuggiva in bicicletta, lo stesso mezzo usato per arrivare all'asilo nido. Non si hanno ovviamente al momento notizie sul motivo di questo gesto. Stamattina, e ne avevamo dato notizie anche noi, si era temuto che qualcosa di simile fosse accaduto anche in Norvegia, nel parcheggio di una scuola elementare. Invece, a quanto finora hanno ricostruito gli inquirenti, si tratta di tutt'altra vicenda. Un agente della polizia locale ha sparato una donna, poi ha tentato il suicidio. Per quanto riguarda il Belgio, invece, è in corso una conferenza stampa del ministro degli interni fiammingo e quindi ovviamente arriveranno altre informazioni su questa vicenda. È tutto. Grazie a Laura Bettini, naturalmente noi vi terremo informati. Nel frattempo andiamo avanti col giornale, torniamo in Italia, voltiamo pagina. Sono state decise le materie per l'esame di maturità attese come ogni anno dagli studenti, ad annunciarle su YouTube prima ancora che all'agenzia di stampa è stato lo stesso ministro Maria Stella Gelmini, e allora le sentiamo proprio dalle sue parole. Per il liceo classico è stato scelto il latino, per il liceo scientifico la matematica, la lingua straniera nel liceo linguistico, pedagogia nel liceo pedagogico ed elementi di architettura per il liceo artistico. Veniamo ora agli istituti tecnici e professionali. Per l'indirizzo ragionieri, economia aziendale, per l'indirizzo geometri, tecnologia delle costruzioni, nei tecnici commerciali per programmatori, informatica generale ed applicazioni gestionali, nei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere è stata scelta la lingua straniera, sistemi elettronici automatici per l'indirizzo elettronica e telecomunicazioni, disegno, progettazione e organizzazione industriale per l'indirizzo meccanica, tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale per l'indirizzo chimico. E questo era il ministro Gelmini su YouTube, l'annuncio delle materie per l'esame di maturità. Andiamo a Napoli. Acqua di fontane tinta di rosso da ignoti che hanno lasciato dei volantini con riferimento a circoli di destra. Volantini con su scritto 27 dicembre 2008, 18 gennaio 2009, Palestina, operazione Piombo Fuso, 1203 morti. Il mondo è rimasto a guardare sull'orlo della fossa seduto. Volantini che naturalmente sono stati sequestrati dalla Digos. Noi di Medio Oriente torneremo a parlare più avanti nel corso del giornale. Vizi e virtù degli italiani, ora esce oggi sugli schermi italiani Italians di Giovanni Veronesi, un ritratto degli italiani all'estero con Sergio Castellito e Carlo Verdone, il primo in Medio Oriente, il secondo in Russia. Carlo Verdone al microfono di Marta Cagnola. Il mio ruolo, sono una persona schiva, seria, un dentista che sta patendo le pene dell'inferno perché ha un rapporto matrimoniale che sta crollando per via di un grosso problema che scopriremo poi all'interno del film. Quindi sono l'ultima persona al mondo che vorrebbe andare a San Pietroburgo a fare questo convegno, però il mio collega di studio contatta su Skype un italiano esperto in tour sessuali che sarà il disastro della prima parte del mio viaggio. Io con le prostitute non ci sono mai andato nella mia vita. Tutti così dicono, nessuno mai è andato a prostitute. Vuole sapere come le chiamo io qua? Nipotine. Avete incontrato gli italiani deleteri, quelli che fanno fare brutta figura agli italiani in Russia? Stasera in un ristorante mi ha detto, un mio collega. Dico, ma chi è lei? Sono un collega, di un attore, no, un regista. Ah, che film fa? Porno, mi ha detto. Qua a San Pietroburgo, queste sono le mie nipotine, fa. Un altro voleva chiamare Rocco Siffredi per passarmelo, altro regista porno de Messina che stava là a San Pietroburgo. Abbiamo incontrato i personaggi che stavamo interpretando, è stato incredibile. Spero solo che gli italiani che restano in Italia siano migliori di quelli che vengono qua. Però ci sono anche personaggi come il tuo, cioè in positivo? Ma sì, ci sono personaggi diversi, insomma, io ho visto anche delle comitive di persone molto serie che andavano a fare dei viaggi culturali, che stavano a divertire non in maniera così terribile come questi, però per quanto io li capisco pure quelli che vanno a fare i viaggi sessuali, perché magari sono persone che hanno, che ne so, magari hanno una gran solitudine nella città dove vivono, che forse viaggi così gli danno l'illusione di aver passato, non lo so, non voglio essere così spietato, però certamente sono personaggi che fanno ridere e quindi in commedia funzionano sempre molto bene, anche perché poi i polli, la parte dei polli la fanno loro. 13 e 16 minuti, le notizie di oggi, extra large. Nuovo grave episodio di aggressione e violenza sessuale a Roma la notte scorsa. Due fidanzati a Guidonia sono stati aggrediti da 5 uomini che hanno picchiato e chiuso nel bagagliaio lui e violentato lei. Solo 2 giorni fa l'episodio a Primavalle. Un fatto grave, dobbiamo proseguire sulla via del controllo del territorio. È stato l'intervento del ministro dell'interno Maroni che ha annunciato altri 6 mesi di militari nelle città. Sono fatti molto gravi che richiedono un maggior controllo del territorio, questi fatti si prevengono in questo modo. Nei prossimi giorni farò una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza per dare il via alla seconda fase dell'utilizzo dei militari nelle città per un nuovo semestre. E il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il piano per la costruzione di nuove carceri. Franco Ionta è stato nominato commissario straordinario per l'edilizia carceraria, il ministro Angelino Alfano. Ricordo solamente in conclusione che le nostre carceri sono per lo più state realizzate tra il 1400 e il 1800 e che le nuove carceri hanno avuto quelle di maggiore importanza e di costruzione, tempi di edificazione vicini o superiori ai 10 anni. Resta alta la tensione a Lampedusa, dove è in corso lo sciopero generale proclamato dal Consiglio Comunale e dal Comitato SOS Isole Pelagie per protestare contro la decisione del ministro Maroni di realizzare sull'isola un centro per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati. Alla fine saranno contenti anche gli abitanti di Lampedusa, ha replicato il ministro dell'Interno. Un uomo con un coltello ha fatto irruzione in una scuola materna alle porte di Bruxelles, in Belgio, ha ucciso un bambino e un adulto, è entrato, raccontano testimoni, con coltello alla mano e viso dipinto di nero e di bianco. È stato arrestato. Via libera definitivo al contratto per i dipendenti dei ministeri della scuola per il biennio economico 2008-2009. La stipula è avvenuta stamattina. I contratti per entrambi i comparti non sono stati sottoscritti però dalla CGIL. Ed è un altro strappo dopo quello di ieri sera sull'accordo quadro per i contratti di lavoro atteso da 10 anni e che la CGIL non ha firmato. Il consulente per il Ministero del Welfare, Marco Tiraboschi. una riforma sperimentale, quindi per capire concretamente in termini di produttività, incremento di retribuzione, qual è verificare l'attuazione concreta. Sul piano invece politico e sindacale si rompe una stagione di veti, uno stallo durato troppi anni e quindi sicuramente un'intesa storica, perché avvia un processo di riforma da cui non si potrà più tornare indietro. Momenti di forte tensione al processo di Milano contro le nuove Brigate Rosse, interrotta la seduta quando gli imputati hanno duramente attaccato Pietro Ichino, giuslavorista, oggi anche senatore del PD, stava spiegando in aula i motivi che lo hanno indotto a costituirsi parte civile al processo. Decise le materie per l'esame di maturità, attese come ogni anno dagli studenti. Per i licei classici il latino, matematica per lo scientifico, lingua straniera per il linguistico. Ad annunciarlo su YouTube lo stesso ministro Gelmini. E anche il Papa debutta su YouTube. La rete, dice Ratzinger in un video, è una grande opportunità per l'umanità. Per continui ad essere presenti con il suo messaggio del grande areopago della comunicazione sociale, come lo definiva Giovanni Paolo II, e non si trovi estranea agli spazi in cui innumerevoli giovani navigano alla ricerca di risposte e di senso per la loro vita, dovete cercare le vie per diffondere in forme nuove voci e immagini di speranza attraverso la rete telematica che avvolge il nostro pianeta con maglie sempre più fitte. E dunque, come avete sentito, Benedetto XVI loda in qualche modo internet e i nuovi media se usati per favorire la comprensione e la solidarietà umana. Ha detto Benedetto XVI, la rete e le nuove tecnologie possono essere un dono per l'umanità. Il Papa lo ha affermato nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in concomitanza con lo sbarco del Vaticano su YouTube. Il canale dedicato offrirà una copertura di tutte le attività del pontefice e di tutti gli avvenimenti più rilevanti. In Vaticano, tra l'altro, andremo tra poco. Prima però andiamo a Milano. Nelle moschee si predichi il Corano in lingua italiana, ha detto qualche giorno fa, ricorderete, il presidente della Camera Fini in visita negli Emirati Arabi. Si è così riaperto il dibattito sui luoghi di culto in Italia e tra le comunità islamiche ci sono posizioni diverse. Critica Lucoi a favore il Centro Islamico Culturale d'Italia. Oggi noi siamo andati in un centro islamico proprio a Milano, dove questo appello è stato accolto anche prima che venisse rivolto. Perché? Cosa succede lì? Stefano Totoro, dove ti trovi? Sì, buongiorno a voi, nostri ascoltatori. Io mi trovo al centro islamico di Viale Padova. Proprio in questo momento è in corso, come ogni venerdì, il primo turno di preghiera per i fedeli musulmani. Una preghiera totalmente in italiano, a differenza di molti altri centri del nostro paese. Qui dal 1993 la preghiera islamica avviene in italiano, sono 4.000 ogni venerdì i fedeli che si radunano in questa casa della cultura islamica, che ha scelto appunto di pregare nella nostra lingua, proprio come ha auspicato, come dicevate prima da studio, il presidente della Camera Gianfranco Fini. Asfa Mahmud, che è il presidente di questa casa, ci ha detto poco fa che condivide appunto l'idea di Fini, perché questa scelta di pregare in italiano è coerente anche con l'intenzione che ci anima, ovvero quella di favorire l'integrazione dei musulmani immigrati in questo paese. Quello che ha criticato anche Asfa Mahmud è stato l'imam fai da te, ovvero ci sono molti imam che predicano in arabo perché non conoscono l'italiano, hanno una cultura più bassa e quindi non apprezzano neanche questo appello lanciato dal presidente Fini. Qui ci sono diversi turni di preghiera, come abbiamo detto precedentemente, tutti quanti in italiano, ed è l'unico per il momento a Milano, che l'unico centro islamico che si prega nella nostra lingua. Per il momento è tutto. Grazie Stefano Totoro. Restiamo in qualche modo in tema, perché un sinodo di tutti i vescovi cattolici del Medio Oriente, dall'Iraq ad Israele, per sostenere la presenza cristiana nelle terre proprio della Bibbia, è stato chiesto, lo chiederanno oggi ufficialmente al Papa i vescovi iracheni. Se la proposta sarà accettata, sarà la prima assemblea generale dei vescovi della Chiesa Cattolica in tutta l'area medio orientale. E intanto domenica ricorre il 50° anniversario di uno storico annuncio. Il 25 gennaio 1959 Papa Giovanni XXIII, sorprendendo tutti, soprattutto all'interno della Chiesa, comunicò la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Paolo Piacenza ha intervistato lo storico Alberto Melloni, autore del recente Papa Giovanni, un cristiano e il suo concilio, e curatore di un altro libro che uscirà tra poco, Chi ha paura del Vaticano II. Sentiamo l'intervista. Nel 59, quando Papa Giovanni, dopo 100 giorni dell'elezione, annuncia l'idea di fare un concilio ecumenico, fa qualcosa che nessuno si aspettava da lui. Era stato eletto per essere un anziano papa di transizione dopo un lungo regno, però al tempo stesso in questo modo lui riusciva a dare voce a quella che era stata una lunga speranza sparsa all'interno delle chiese e anche della Chiesa Cattolica sulla possibilità di un rinnovamento profondo della vita cristiana, e anche rendeva onore a quella che era la sua esperienza di prete tridentino, cioè di un uomo che era cresciuto in quella che al fondo, nella sua origine, voleva essere anche quella una grande riforma della Chiesa. Come venne accolto quell'annuncio e come venne accolto poi il concilio? L'annuncio fu accolto con un atteggiamento di assoluto silenzio, sul quale Papa Giovanni fece anche dell'ironia, dicendo che i cardinali erano rimasti a bocca aperta, non avevano commentato in nulla. E l'annuncio ebbe poi presto un destino singolare, perché in tutto il mondo, quando la notizia pian piano trapelò, suscitò un'ondata di entusiasmo senza precedenti. Per moltissime persone voleva dire la possibilità che il cristianesimo diventasse non più una semplice appendice dell'Occidente, dell'anticomunismo americano, del rimpiano di una città che non c'era, ma anche un grande fattore di dinamismo del mondo che cambiava. E dall'altro suscitò un grande sconcerto, perché all'interno soprattutto degli organi che poi lo prepararono, quelli della Curia Romana, ci si rassegnò all'idea, cercando di immaginare un grande concilio di condanne. Vennero preparati 70 documenti in vista del concilio, 69 dei quali erano documenti di condanne e uno, quello sulla liturgia, un documento di riforma. I 69 non arrivarono neanche alla discussione, uno solo ci arrivò. Cosa è rimasto del concilio oggi e chi ha paura oggi del concilio? Da un lato la risposta più semplice è che tutto quello che noi oggi vediamo del cattolicesimo è il Vaticano II. Il Vaticano II ha rappresentato la possibilità per un'intera generazione di preti, di vescovi, di fedeli semplici, così di reimpegnarsi nella vita di fede, uscendo da questa logica della difesa, del fortino assediato, che ormai mostrava la corda. Al tempo stesso, proprio perché è stato un atto di riforma così incisivo e profondo, l'agenda del Vaticano II rimane in gran parte ancora da fare. Come mai quest'inverno, ve l'abbiamo raccontato anche noi, c'è tanta neve, tante valanghe, tanti incidenti in montagna? Dario Ceccarelli lo ha chiesto ad un uomo che di montagna se ne intende, Walter Bonatti, il celebre alpinista lombardo che proprio in questi giorni, tra l'altro, ha dato alle stampe il suo libro Montagne di una vita, Baldini e Castoldi, e racconta a Dario Ceccarelli come bisogna prepararsi ad affrontare ogni tipo di sfida. Buongiorno Bonatti, la nostra chiacchierata parte dall'attualità. Lei le montagne, come ha scritto anche nel suo ultimo libro, le conosce bene, dal Monte Bianco al Cervino, dal K2 alla Patagonia, e le ha sempre rispettate. In questo inverno in montagna ci sono stati molti incidenti, 13 persone hanno perso la vita. C'è una spiegazione o la montagna in questi casi non dà spiegazioni particolari? Ma guardi, è difficile parlare di queste cose. È difficile prima di tutto perché io non ero là mentre succedevano le disgrazie. Però è certo che come principio però bisogna andare assolutamente preparati, non soltanto fisicamente, ma conoscere la montagna, avere una giusta esperienza e una giusta grande prudenza. Spesso purtroppo in montagna, come in tutte le altre attività, ci si affida agli attrezzi, alla tecnica, trascurando magari invece i principi primari, fondamentali. Forse si pensa che appunto, essendo la tecnologia più avanzata, si debba far meno fatica anche, come dire, di preparazione. Probabilmente, ma questo vale al negativo, ma vale anche nel positivo. Spesso le imprese che si fanno una volta erano molto più riferite all'uomo, cioè era l'uomo che vinceva. Adesso più che l'uomo, spesso grazie a queste tecniche, è il mezzo che usa, il mezzo tecnico che impiega. Il merito va più al mezzo impiego, al mezzo tecnico che si impiega, piuttosto che all'uomo stesso. Lei ai suoi tempi impiegava molto tempo a preparare una scalata. Ecco, una vita. Non ha l'impressione che adesso si abbia fretta anche in questo? Ma io questa impressione sulla montagna non posso averla, perché io sono lontano ormai dalla montagna. Però vedo nelle cose della vita è così, purtroppo, si ha fretta in tutto. Si saltano le tappe così, alla chetichella, alle volte, e insomma in montagna dove si rischia la vita e in altre attività in cui si rischia la vita bisogna stare molto attenti. Le sue imprese, sia nelle scalate che nei suoi viaggi di avventura, hanno sempre avuto una caratteristica, quella di misurarsi con il proprio limite. È così? Sì, effettivamente.

E ora parliamo di contratti di lavoro. È stato firmato questa mattina quello dei ministeri e della scuola. Parliamo del biennio economico 2008-2009. La stipula, dopo l'ok dal governo e anche dalla Corte dei Conti, è avvenuta all'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione. I contratti per entrambi i comparti però non sono stati sottoscritti dalla CGIL. E invece, per quanto riguarda quello relativo al personale dei ministeri, non sono stati sottoscritti nemmeno dai CUB e dalla CSE. Un altro strappo per la CGIL dopo l'accordo tra sindacati, Confindustria e governo sulle linee guida della riforma della contrattazione, arrivato ieri sera con il no appunto del sindacato guidato da Guglielmo Epifani. Dopo l'intesa del 1993 era stato l'allora governo Prodi nel 98 a chiedere alla commissione Giugni di proporre delle modifiche al modello contrattuale, dunque un negoziato durato 10 anni e che ha trovato così ieri la sua conclusione. Il nuovo modello prevede il doppio livello di contratto nazionale di categoria e poi aziendale o territoriale, la durata triennale e non più biennale sempre del contratto naturalmente, e il riferimento non più all'inflazione programmata come avveniva fino adesso, ma all'indice europeo elaborato da Eurostat. Ma in concreto adesso cosa cambia nel mondo del lavoro? L'abbiamo chiesto a Marco Tiraboschi, consulente del Ministero del Welfare. Beh, dal punto di vista pratico è ancora difficile da dirsi, una riforma sperimentale, quindi per capire concretamente in termini di produttività, incremento di retribuzione, qual è verificare l'attuazione concreta. Sul piano invece politico e sindacale si rompe una stagione di veti, uno stallo durato troppi anni e quindi sicuramente un'intesa storica, perché avvia un processo di riforma da cui non si potrà più tornare indietro. Il sindacato che non si adegua è destinato a annullarsi o comunque a mantenere posizioni di retroguardia che non sono in linea col futuro delle relazioni industriali. E invece, venendo proprio a quelli che sono i capitoli dell'accordo, i due livelli, il contratto che diventa triennale, l'aspetto sull'inflazione. L'aspetto più decisivo è che per la prima volta abbiamo dei principi e dei linee guida comuni, non abbiamo un unico accordo che riguarda tutti i comparti produttivi, tutte le categorie, tutte le associazioni datoriali. Questo significa che per la prima volta noi avremo il passaggio da un sistema industrialista a un sistema più aperto e coerente con i diversi modi di lavorare, di produrre il lavoro, quindi articolazione per il commercio, per gli artigiani, la cooperazione, le professioni, anche il pubblico impiego che entra in questa linea, quindi un quadro generale, ma poi un'attenzione alle peculiarità di ciascun settore. E quali saranno allora invece proprio i settori che per primi, le categorie di lavoratori che per primi andranno ad applicare questo nuovo quadro di regole? Sì, sicuramente i settori che subito riusciranno a mettersi in sintonia con le nuove regole sono quelli dove già da oggi è sviluppata e radicata la contrattazione collettiva di secondo livello, voi territoriale, voi aziendale. Mi riferisco in particolare agli artigiani, all'edilizia, all'agricoltura e comunque a quei sistemi che hanno già coltivato la logica degli enti bilaterali, quel bilateralismo che è molto enfatizzato e valorizzato nel protocollo e che peraltro è anche adeguatamente sostenuto oggi dal pacchetto anticrisi, che dà sostegno appunto a persone senza reddito che hanno copertura attraverso enti bilaterali, cioè enti che garantiscono un welfare negoziale, tutele attive, formazione, ammortizzatori e che sicuramente vengono costruiti sui territori, valorizzando molto quella vocazione al decentramento che un po' anima questo accordo. E grave episodio oggi durante l'udienza del processo ai presunti appartenenti alle nuove BR. Ecco cos'è successo, ce lo racconta Daniele Biacchessi. Il copione è quello di un film già visto. Un'aula di un tribunale, alcuni brigatisti della seconda posizione processati per associazione sovversiva e rinchiusi nelle gabbie, un testimone, il giuslavorista Pietrocchino, che i brigatisti volevano colpire, forse uccidere, ora parte civile nel processo di Milano. Poi le urla, le grida, gli insulti, le minacce dei brigatisti contro Ichino. Massacratore di operai, fai parte di una banda di sfruttatori, hai costruito la tua carriera criminalizzando i lavoratori. Un film già visto nel passato dove le vittime venivano confuse con i carnefici. Sul finire degli anni 70, ad esempio, al processo per il nucleo storico brigatista di Torino, gli avvocati venivano minacciati, ucciso il loro presidente Croce. La stessa brutta scena vista e rivista centinaia di volte dentro le aule giudiziarie nel corso dei cosiddetti anni di piombo. Solo che oggi il terrorismo brigatista non rappresenta più una minaccia per la democrazia. bensì per le singole persone come Marco Biagi e Massimo D'Antona, progressisti, riformisti, uomini di dialogo tra governo e parti sociali, soprattutto come Ichino, esperti del mercato del lavoro. Abbiamo parlato dei contratti, c'è un altro dato economico di giornata, riguarda le vendite al dettaglio in caduta anche al mese di novembre. In base ai dati dell'Istat sono scese del 3% rispetto all'anno scorso, su base mensile invece il calo è stato dello 0,2%. Riguardo ai prodotti in vendita, tutti i beni non alimentari hanno messo a segno forti flessioni, parliamo di orologerie, gioiellerie meno 5%, cartolerie, libri, giornali, riviste meno 5%, prodotti di profumeria, cura della persona. Anche qui meno 5%. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Non mancano ormai pagine e pagine sui giornali dedicate alla crisi ogni giorno. Tu ce le stai anche un po' raccontando in questi giorni, ma oggi partiamo invece da una copertina. Sì, la copertina dell'Economist è molto divertente, a volte fanno queste copertine illustrate, il titolo molto grande è Inside the Banks, quindi all'interno delle banche, uno speciale di 14 pagine, significativo il disegno, è una cassaforte aperta e in questa cassaforte c'è una bottiglietta da cui escono fumi tossici e con tanto di teschio e marchio di tossicità. Il riferimento è naturalmente soprattutto a tutti quei titoli, quei junk bonds, quegli hedge funds che hanno messo in crisi anche gli istituti più famosi, più prestigiosi, e poi che poi hanno innescato tutta il circolo vizioso che sappiamo e che, di cui ancora adesso facciamo le spese. Giulia. Andiamo invece con l'Independent per una notizia che ci porta negli Stati Uniti. Sì, invece l'Independent, un occhio alla politica estera, tutti stiamo così, abbiamo tutti sotto la nostra lente Obama, tanto per tornare all'Economist, ha un articolo che dice yes you must e non you can, quindi devi risolvere i problemi. L'Independent sottolinea che uno dei problemi grossi di Obama è naturalmente l'Afghanistan. Secondo le fonti dell'Independent starebbe vacillando quella forte alleanza che c'era stata tra Bush e Hamid Karzai, il presidente dell'Afghanistan, che però secondo molti è poco più che il sindaco di Kabul, nel senso che non controlla il paese. I consiglieri di Obama, molto diversi da quelli di Bush, questo sicuramente, gli avrebbero già consigliato di cambiare l'atteggiamento verso Karzai e cercare nuovi interlocutori in Afghanistan. Naturalmente è difficile perché formalmente Karzai è l'interlocutore in Afghanistan. Grazie a Giulia Crivelli. Tra poco apriremo anche noi la pagina internazionale. Prima, se c'è ancora qualcuno che non ha pranzato, ecco che ci aspetta il nostro gastronauta Davide Paolini. Oggi andiamo a Pistoia, nel centro storico, in una trattoria davvero molto speciale anche per il proprio menù, che si chiama Botte Gaia. Bene, qui si possono mangiare una serie di antipasti davvero variegati, sia a base di salumi, ma anche per esempio un flan croccante ai broccoli su fonduta di pecorino. Soprattutto la forza di questo locale è sui secondi piatti. Perché? Perché difficilmente si mangia un lampredotto trippato alla fiorentina oppure un baccalà croccante al rosmarino con ceci del Chianti all'olio extravergine. Però si può passare anche a un altro piatto tradizionale che è il fritto dell'Aia, pollo e coniglio con verdure fritte. Chi volesse mangiare un primo consiglio un risottino acquerello alla chiantigiana con vino rosso e salsicce. Sicuramente la carta dei vini è di grandissima qualità, lasciatevi consigliare dal sommelier molto bravo e se volete le bollicine sicuramente trovate pane per i vostri denti. Lo ripeto, la Botte Gaia a Pistoia in via del Lastrone al numero 7. Buon appetito. 13:47, le notizie di oggi. Nuovo grave episodio di aggressione e violenza sessuale a Roma. La notte scorsa due fidanzati a Guidonia sono stati aggrediti da 5 uomini che hanno picchiato e chiuso nel bagagliaio lui e violentato lei. Un fatto grave, dobbiamo proseguire sulla via del controllo del territorio, ha detto il ministro dell'Interno Maroni. E il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano carceri. Franco Ionta, nominato commissario straordinario per l'edilizia carceraria. Un uomo con un coltello ha fatto irruzione in una scuola materna alle porte di Bruxelles, ha ucciso un bambino e un adulto, è entrato, raccontano testimoni, con un coltello alla mano e il viso dipinto. L'uomo è stato arrestato. Decise le materie per l'esame di maturità attese dagli studenti per i licei classici, il latino, matematica per lo scientifico, lingua straniera per il linguistico. È stato arrestato in Ruanda il capo dei ribelli tutsi congolesi Nkunda. A fermarlo sono stati militari congolesi e ruandesi. I due paesi hanno appena iniziato a collaborare per fermare tutte le fazioni ribelli dell'area. E da qui partiamo perché il Ruanda è un tassello importante nello scacchiere internazionale. Allora sentiamo cosa comporta l'arresto di questa mattina. Così si infrange il sogno ribelle di Loran Kunda. Dopo aver messo in scacco l'esercito governativo, dopo aver fiatato per mesi sulla capitale del Kivu Goma, aver costretto la diplomazia internazionale a salti mortali per ricomporre il frammentato scacchiere politico fatto di interessi minerari e questioni etniche, Nkunda è stato arrestato ieri sera alle 22.30 in territorio ruandese, dove era fuggito. Messo all'angolo dall'inusitata alleanza tra Ruanda e Congo e dopo che una parte del suo stato maggiore lo aveva abbandonato una settimana fa, Nkunda e i suoi fedelissimi sono stati attaccati a Bunangana, al confine con l'Uganda, dove hanno posto pare una blanda resistenza, per poi tentare la fuga in territorio ruandese. Ora il generale sarebbe in un luogo segreto nel paese vicino, proprio quel Ruanda che lo aveva appoggiato finora nel suo sogno indipendentista. Da alcuni giorni truppe di Kigali erano entrate in Kivu per dare la caccia ai temibili FDLR, responsabili del genocidio del 94, e che da anni scorrazzano indisturbati nella regione. Così quella strana operazione di pulizia si è trasformata anche in un accerchiamento verso i ribelli. Ma ciò che dà da pensare è proprio la nuova alleanza Kigali-Kinshasa. Quali interessi e quali nuovi accordi nasconde? L'ultimo conflitto coi ribelli ad agosto era scoppiato dopo che era stato siglato un accordo tra il governo congolese e le multinazionali cinesi per lo sfruttamento del prezioso coltan. Allora Nkunda aveva alzato la testa, forte del sostegno ruandese e si dice americano. Lui, il generale ribelle, da molti additato come burattino degli interessi anglo-americani nella zona, puntava però dritto a Kinshasa, almeno a un posto in Parlamento. Ora dovrà essere estradato per subire un processo, ma tutti si domandano quale contropartita abbia ricevuto il Ruanda. Giampaolo Musumeci, GR24, Il Sole 24 Ore. E dall'Africa ci spostiamo in Medio Oriente. Israele è convinto che il nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, continuerà ad evitare il dialogo con Hamas, come ha fatto l'amministrazione Bush. In nottata, un rappresentante in Libano del partito integralista islamico aveva detto ad Al Jazeera che Hamas ritiene che Obama non rappresenti in realtà alcun cambiamento. Intanto l'organizzazione palestinese si muove. Ugo Tramballi, buongiorno. Buongiorno. Hamas non sta ad aspettare, giusto? Ci sono molti modi di dialogare con qualcuno. C'è il dialogo diretto che presuppone un riconoscimento, ma ci sono anche tante altre vie nascoste attraverso le quali si può benissimo cominciare a trattare. Non credo che se ci sarà l'opportunità, se Hamas dimostrerà un minimo cambiamento, l'amministrazione Obama si lascerà scappare l'opportunità di cercare di coinvolgere Hamas in un processo politico. Il modo migliore per sconfiggere il terrorismo è comprenderne le ragioni politiche e cercare di inserire, come già successe per l'OLP, del resto per Fatah, inserire questi elementi in un processo politico. Grazie ad Ugo Tramballi. E adesso la nostra finestra sul mondo arabo che oggi ci porta in Iran. Allora, 3, 2, 1, quando vuoi. A 4 mesi dalle elezioni presidenziali iraniane si rafforzano le voci sullo stato di salute del presidente Ahmadinejad, che nelle ultime settimane ha disdetto ben 5 impegni pubblici. La stampa moderata elenca gli eventi desertati riportando le giustificazioni che di volta in volta hanno dato i suoi collaboratori: motivi di salute, inquinamento dell'aria e stanchezza. Sono illazioni senza fondamento che non impediranno al presidente di servire il suo popolo, ha sbottato un suo stretto collaboratore rispondendo a chi metteva in dubbio l'opportunità di una sua ricandidatura. Intanto la formidabile sponda offerta da Obama, che si è detto disposto a parlare con Teheran senza precondizioni, scriveva ieri la stampa araba, aumenta le chance del moderato Khatami, che 2 giorni fa ha annunciato la sua candidatura. Adil Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Quello che vi raccontiamo oggi è un appuntamento per il fine settimana, ma non solo, perché parte oggi a Bologna la 33esima edizione di Arte Fiera, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. Ce la racconta la nostra inviata. È la prima e la più importante mostra mercato italiana di arte moderna e contemporanea, la più longeva e quella che vende di più. La manifestazione, che fino a lunedì 26 gennaio animerà la città, è il luogo privilegiato per le conferme del mercato e le anticipazioni di ciò che avverrà nel mondo dell'arte. Eventi di gelo portati dalla congiuntura economica mondiale non hanno scoraggiato gli oltre 200 galleristi giunti qui ad Arte Fiera e pronti a scommettere su questo appuntamento bolognese con opere di 2000 artisti, tra cui anche Fontana, Morandi, Warhol, Melotti, Miro e Kate Haring, solo per fare qualche nome. E poi ci sono i convegni, i momenti di confronto, un programma di incontri dedicati agli sviluppi del collezionismo d'arte, e accanto alla manifestazione un calendario di eventi che include film, musica e performance. E poi c'è la grande Art White Night, la notte bianca prevista domani sera, con aperture di musei, gallerie, con spettacoli e concerti che animeranno le vie della città per 4 giorni vetrina dell'arte internazionale. Michele Daghini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. In studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati, il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Peter Bescapè. Ed Extra Large vi aspetta lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Extra Large @radio24.it se volete scriverci. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.